Ciao ragazze. Ciao. Ciao. Dai, vabbè, iniziamo. No, no. Yo yo yo! Ciao! Eccoci! Buonasera! Buonasera a tutti! Siamo tornate su Nervature. Sì. È da un po' che non ci sentivate, mi sa. Mi sa, poi. Sì, no. Vabbè. Sono periodi impegnativi per tutti. Sì, sì, sicuramente. Abbiamo studiato anche per voi. Prossime puntate. Chiaramente. Siamo preparatissime. E... ok, quindi niente, buonasera, buongiorno, buon tutto, buon compleanno a tutti. Anche come oggi sempre, buon sì, sarà il compleanno di qualcuno. Buon anniversario anche delle magari vostre coppie amorosissime che sono in piedi da un anno o più. E in ogni caso auguri a qualsiasi cosa a tutti. No, è importante perché oggi è il 14 febbraio, se... sì, è il 14 febbraio. E che giorno è il 14 febbraio? Penso che ormai non sia possibile che qualcuno non l'abbia saputo oggi che giorno è, perché è scritto ovunque. Purtroppo sì, a meno che uno non si fa fare le vacanze nelle montagne, tipo qualcuno qui, e... già. E non veda un cacchio di pubblicità e niente, però e... niente, buon San Valentino a tutti, cari e care all'ascolto. E... siccome appunto sarete tutti super impazziti con gli ormoni a mille, oggi vi parliamo di qualcosa che c'entra con l'argomento, ovvero di come le piante si amano alla follia. Esatto, come anche loro sparano i loro ormoni a mille. Sì. No, non è vero. E sparano i loro pollini a mille. E quindi niente, vorrei iniziare con una frase che una volta, non mi ricordo se ho letto a qualche parte o qualcuno mi ha detto, ma era primavera, quindi non proprio adesso, ma diciamo fra un mesetto, fra un po', e niente, la frase è: immaginate che bello questo momento, che ci sono tutte le piante a giro che stanno facendo sesso con tutte le altre piante. È bellissimo, è vero. No? Perché non solo le piante, anche gli uccellini che canticchiano in primavera, quello vi pare, però effettivamente la primavera è il grosso momento in cui viene sparso polline e robe a giro, per cui le piante poi... e fanno sesso, chiaramente. Esatto. Sono poco pubiche, poco pudiche, molto pudiche. Poco pudiche. Poi esatto. C'è qualcuno che è un po' influenzata dalla giornata, insomma, il pensiero è quello. Attenzione. Quindi, sì, quindi niente, l'argomento di oggi di cui vogliamo trattare con voi è proprio quello della riproduzione delle piante, che è un cacchio di argomentone enorme. Però prima, giusto, cosa che non vi abbiamo potuto dire prima, è che sappiamo che voi stavate attendendo di sapere chi avrebbe vinto la sfida dell'altra volta sulla foto, e ha vinto la foglia con le nervature. No. Abbiamo gente in studio che non approva. Tanti bacini ci mandano. Ma perché lì siete tutti di parte, siete tutti di parte, e invece io ringrazio chi ha votato per la foglia. Non perché io volessi la foglia, ma perché così. Ok, vabbè, niente, questa era la notizia di informazioni di servizio. Sì, quindi non abbiamo ancora aggiornato in realtà le immagini, però lo faremo. Esatto. Speravamo tanto che... Io speravo, io personalmente, Addu, ciao, tra l'altro sono Addu e... Ah sì, dai, io sono Zazzi e... E io sono Sissi. Esatto, esatto. Ricordiamo quindi dove siamo. Siamo su Radio Wombat, Radio Libera di Firenze, e il sito è radiowombat.net, da cui potete trovare il bottoncione giallo della diretta, e nella quale pagina poi trovate anche il link per il pad, che magari stavolta lo spieghiamo, esatto, un po' meglio. Che l'altra volta non si è capito molto, forse. Sì. Oh, vabbè, ci dobbiamo prendere la mano ancora. Che il pad è praticamente come se fosse un foglio di testo tipo Word, però pubblico online, quindi chiunque apre il pad ci può scrivere e tutti gli altri lo vedono poi, cioè tutti gli altri che dopo o anche in contemporanea aprono il pad lo vedono in diretta, tra l'altro. Esatto, si vede mentre scrivete, quindi non dovete inviare niente, fare nulla, solo scrivere i vostri pensieri. Sì, sì, sì, sì. Bene, quindi... quindi riproduzione, si diceva. Esatto. Riproduzione, allora, innanzitutto dobbiamo dividere la riproduzione delle piante in due grandi categorie, che sono quindi la produzione asessuata e la produzione sessuale. La riproduzione asessuata comporta una creazione, diciamo, di un clone di quella che è la pianta madre, quindi sarà un individuo che sarà uguale a quello iniziale. E perciò si può. Non c'è un cambiamento. Ma solo sì, una diciamo copia su un nuovo individuo che crescerà e si riprodurrà esso stesso. Alcuni esempi, appunto, in questo caso non serve quindi avere il maschio e la femmina, e alcuni esempi possono essere la talea, che magari avete presente, comunque è quando si prende un rametto di una pianta, lo si pianta a sua volta e da lì inizierà poi a radicare e a crescere successivamente. Oppure anche la margotta, questi due, talea e margotta, vengono utilizzati anche ad esempio nel vivaismo per riprodurre le piante che hanno un certo carattere interessante che si vuole mantenere via via e quindi e che non si vuole perdere, appunto, come avverrebbe nel caso della riproduzione sessuale. E la margotta invece è un tipo di riproduzione nella quale si prende un ramo che è ancora attaccato alla pianta madre, viene fatto radicare e poi questo viene staccato successivamente. Altri esempi possono essere gli stoloni, che non so se avete presente nelle fragole, ma anche, si diceva prima, nella gramigna o nella canna da fiume, per esempio, lì in particolare sono, ma anche in specie arboree, sì, nella robinia. Esatto. Nella robinia, per esempio, sì. Che dove abbiamo quindi dalla parte, diciamo, delle radici questi lunghi filamenti, diciamo, che possono essere o sopra al suolo o leggermente sottoterra. E nel caso della fragola, per esempio, sono sopra. Esatto. Nel caso della gramigna e della canna da fiume sono sotto. Nel caso della robinia pure sono sotto. E da qua poi spunteranno, dopo un certo intervallo, dei nuovi individui che cresceranno poi autonomi. Un'altra tipologia è invece anche il pollone, che diciamo qua si può discutere sopra, perché non è così chiara e netta la differenza tra appunto il fatto che si venga riprodotto un nuovo individuo o il fatto che invece cresca solo, diciamo, un ramo dalla pianta madre, perché appunto il pollone si individua anche in qualcosa che nasce da una gemma, cosiddetta gemma latente, che è una gemma che non si apre inizialmente sulla pianta, ma che si apre, rimane collegata alla pianta e si apre successivamente, anche dopo molto moltissimo tempo, a causa di stress o insomma altre condizioni critiche. Esatto. E quindi dà vita a un nuovo ramo che poi sì, magari appunto se la pianta madre muore può portare avanti in realtà esso stesso l'individuo, quindi può diventare quella poi una pianta singola. Sì, esatto. E questo perché i polloni sono da queste gemme che provengono dalle radici, quindi insomma non sono rami che vengono dalla pianta, dalla parte aerea della pianta, ma provengono dalla radice, quindi sono, si possono considerare individui a parte, come no, in realtà. Esatto, esattamente. Un esempio di pianta super pollonifera, ovvero che fa tanti polloni, è l'olivo, è un classico esempio. Infatti ci sono anche dei racconti di contadini che dopo gelate incredibili li sono morti tutti gli olivi nell'oliveta, ma poi magari dopo un anno si scopre in realtà riescono a ributtare tutti o comunque tanti, proprio per la loro grande capacità pollinifera, scusate. Esattamente. Invece, per quanto riguarda l'altro tipo di riproduzione, ovvero quella sessuale, il fatto principale, il fatto appunto fondamentale, è che c'è un'unione fra maschio e femmina. Quindi partiamo come proprio esempio super semplice da noi umani, che è esattamente quello che succede. C'è il corredo genetico, quindi DNA, maschile che si unisce a quello femminile e danno luogo a un nuovo individuo. E questo rimescolamento di corredi genetici, quindi di informazioni genetiche, di DNA, è quello che provoca la creazione, diciamo, di un nuovo individuo che sia diverso da, però, gli individui genitori. Ed è infatti proprio grazie a questo che è stata possibile, l'evoluzione nella storia. E appunto, vabbè, ovviamente il fatto che questo permetta l'evoluzione fa capire che questo tipo di riproduzione è assolutamente fondamentale. Esatto, perché comunque insomma è importante andare avanti e soprattutto, come sappiamo, anche nell'evoluzione, quando si ha la possibilità di creare qualcosa anche di diverso che poi potrà sopportare alcuni stress, questo porta avanti la specie spesso, piuttosto che avere tante cose identiche che magari non riescono ad adattarsi. Esatto. Sì, esatto. Altro motivo per cui, cioè altro è lo stesso, comunque il motivo per cui ci sono queste mutazioni, quindi evoluzioni nella storia dei corredi genetici, è il fatto che il corredo genetico maschile e femminile, nel momento in cui si uniscono, ovvero il momento della fecondazione, sono aploidi, si dicono aploidi, che significa che sono a metà, mettiamola così, per spiegarlo in modo semplice, tanto non è che è così importante andare nel dettaglio. Quindi abbiamo metà corredo genetico mamma, metà corredo genetico babbo, si uniscono e viene un corredo genetico intero, e quindi da cui si può generare un individuo intero. Vero. Appunto. Vero, non finto. Esatto. E oltretutto poi nel mondo vegetale e non, per esempio quello dei funghi anche, che come già detto i funghi in realtà non sono piante, sono un regno a parte, vabbè, la differenza, diciamo, l'alternarsi di momenti aploidi, quindi metà DNA, per dirlo in modo semplice, e diploidi, sono in realtà abbastanza importanti. Ora, quello che vedremo oggi in realtà è più semplice, diciamo, quindi abbiamo semplicemente aploide più aploide uguale diploide, però così buttiamo il semino dicendo che alcuni tipi di organismi, le felci, vediamo se riusciamo a parlare un minimo dopo, o appunto i funghi, fanno tutta una riproduzione che è divisa in più fasi, e alcune fasi appunto aploidi, altre diploidi. Basta, fermiamoci per ora. Non complichiamocela. Sì. Con tutte queste cose scientifiche ormai... Esatto. Sì. Abbiamo distratto i nostri ascoltatori, li abbiamo già persi. Sì. Vai, spara un esempio. Perché sennò qua ci perdiamo in tutte queste terminologie super scientifiche. Comunque, giustamente Zazie e Addu hanno fatto questa differenziazione, no, tra questi due tipi di riproduzione. Però c'è da dire che in realtà, non dico tutte, però quasi tutte le piante usano un po' entrambi questi metodi, no? Questo probabilmente sia per una questione di appunto evoluzione, ma anche per comunque riprodurre la propria specie il più possibile, e quindi tendono a usare un po' tutte e due questi tipi di riproduzione. Un esempio molto interessante è quello della viola, che tutti conosciamo, abbiamo sicuramente visto tutti una viola in giro da qualche parte, che appunto ha tutti e due questi tipi di riproduzione, quindi fa delle belle fioriture che possono essere fioriture, fiori un po' più piccoli, un po' più grandi, però comunque entrambi adibiti alla riproduzione sessuale, e poi si riproduce tantissimo anche per stoloni. Quindi appunto produce questi fusti che, come hanno detto prima, possono essere sotterranei o non, in questo caso sotterranei, e si riproducono anche da lì. E quindi insomma ha queste due capacità assieme. Però adesso quindi facciamo anche un'altra piccola differenziazione, no? Poi magari specificheremo anche un po' meglio le caratteristiche delle varie piante, per esempio delle angiosperme, delle gimnosperme, che si differenziano in molte cose. E facciamo una piccola distinzione anche tra piante monoiche e piante dioiche, che è una cosa che si sente dire spesso, ma cosa vuol dire, no? Le piante monoiche in particolare sono quelle che portano gli organi che sono adibiti alla riproduzione, quindi possono essere i fiori per esempio, portano i fiori maschili e i fiori femminili sulla stessa pianta, mentre le piante dioiche portano questi organi su piante separate, quindi noi potremmo dire malamente che abbiamo piante femmine e piante maschio, giusto? E alcuni esempi di queste cose, così magari di cose, di piante che già conoscete, sono le piante monoiche come il larice, per esempio, oppure tutte le querce, tutte le specie appartenenti al genere delle querce sono tutte piante dioiche, monoiche, scusate, che quindi hanno questi organi sulle stesse piante. O anche il mais, per esempio, quello che noi mangiamo, sono tutte piante monoiche. Piante dioiche, invece, tra quelle abbastanza note, abbiamo il ginkgo biloba, l'alloro, alcune euforbie, quindi anche piante erbacee, insomma. E la cosa curiosa di queste piante dioiche, quindi, è che noi pensiamo, abbiamo piante maschio e piante femmina, che a volte non si riproducono, quindi non si incrociano solo tra piante appartenenti alla stessa specie, ma anche piante che appartengono a specie diverse dello stesso genere. Vi avevamo forse già parlato una volta della differenza tra specie e genere, ditemi se sbaglio, però magari la ripetiamo. Non sbaglio. Allora, però ripetiamola magari comunque per chiarire. Le piante si tendono a classificare in un modo gerarchico, no? Quindi noi possiamo dire c'è un gruppo superiore, che è quello del genere, che contiene piante che hanno caratteristiche simili tra loro, e un sottogruppo che è quello delle specie. E di solito per le specie sono quelle che appunto sono interfertili tra loro, hanno caratteristiche molto simili nel tempo. Quindi noi abbiamo che alcune piante si possono riprodurre solo tra specie uguali, e altre invece che si riproducono anche all'interno del genere, quindi a volte creano delle specie un po' ibride che si confondono, insomma. Sì, il mondo delle piante è ampio. E, abbiamo detto già un sacco di cose. E cavolo, io spero che, perché non è facile spiegare, quindi spero che si riescano a capire. Nel caso scriveteci se non vi è chiaro qualcosa. Giusto, esatto, scriveteci sul pad. Sul, no? Pad, che ripetiamo, su. Vabbè, ci arrivate dal sito, è più facile, quindi da radiowombat.net, dalla pagina. Oddio, da cui si apre la diretta, quindi lo streaming, c'è anche il link per andare al pad. Bene, allora, magari potremmo fare una piccola interruzione, così facciamo rilassare, riprendere i nostri ascoltatori. E oggi, come già abbiamo fatto un'altra volta, volevamo passare alcune canzoni di gente conosciuta da noi, esatto. Quindi i nostri amici, che vi vogliamo far conoscere, perché non sono così troppo famosi, diciamo, ancora, e chi più chi meno, ma comunque magari non li conoscete, e quindi ve li passiamo. Quindi questo è Emargina l'astemio di Il Mago Annoiato. Via. Thank you. ragazzo ad una festa, io mi sentivo giù, non sapevo più che cosa fare. Cercando la risposta mi recai da Mago Hindu, che mi disse lascia perdere, baby c'è un po' su. Hey! Occhi malvagi vegliavan su di me, mi giudicavan male mentre sorseggiavan te. Il demone antifesta era giunto ormai me, che mi voleva obbligare a perdere l'urido caffè. Allora io presi il vino e vi la verità in premio, la soluzione è semplice, emargina l'astemio. Emargina l'astemio, di lui e vi paura, questa vita senza vino è davvero una tortura. Emargina l'astemio, di lui non ti fidare, se non vuole bere non vuol nemmeno lasciarsi andare. Emargina l'astemio, è uno scherzo di natura, è con un malato che non vuole prendersi la cura. Emargina l'astemio, presto scappa, fallo adesso, il mio astemio sotto sotto al terror di se stesso. La morte sorride dal cielo, se la guardi attraverso il fondo d'un bicchiere, non devi mai scordare che siamo figli di un bicchiere in più, per questo son contento che l'han bevuto lì per me. Emargina l'astemio, è un vigliacco senza onore, la verità fa bagno in un bicchiere di liquore. Emargina l'astemio, è la stessa vecchia storia, di certe sere storte nessuno deve aver memoria. Emargina l'astemio, di lui è vita errore, demoni che dentro a lui stesso fanno orrore. Emargina l'astemio, come fosse un mostro strano, astemio allo terrore di scoprire l'essere umano. Hey! Emargina l'astemio, emargina l'astemio, emargina l'astemio, emargina l'astemio. Eccoci. Ci siamo. Eccoci. Questa era Emargina l'astemio di Il Mago Annoiato, e per me avrà qualche anno questa canzone, ma per me è eterna, è bellissima e porta con sé tanti ricordi e... Grazie. E quindi sì, siamo tornate su Radio Wombat, Nervature, che è la trasmissione che tenta di spiegare e parlarvi un po' di piante, di come funzionano, come vengono usate, dove, perché, quanto male vengono usate. Molto male. Molto male, sempre. Se avesse vinto lo scopino lo vedreste ogni volta che vedete la nostra pagina, ma invece vedete una bellissima foglia, che va bene comunque. Ancora no, però la vedrete a breve, mettiamola così. Allora, quindi è la puntata in cui parliamo della riproduzione delle piante, perché è San Valentino, quindi sono tutti a divertirsi a letto, le piante non a letto, ma si diversano anche loro. Quindi quando si dice love is in the air. Sì, esattamente. E quindi, facendo un po' un sunto di quello che vi abbiamo detto, è che le piante hanno bisogno di riprodursi, chiaramente, come ogni essere vivente, perché le piante sono esseri viventi, ricordiamolo. Lo sono, confermo. Lo sono. Sembra scontato, ma bisogna sempre ricordarlo a volte alle persone. No, forse è che è poco spesso scontato, cioè nel senso poco spesso sembrano qualcos'altro. Forse sì. E, quindi hanno bisogno di riprodursi e lo fanno in quei due modi diversi che si accennava, che anzi che si spiegava approfonditamente, non che si accennava, sì. Che erano quindi riproduzione asessuata e sessuale. quindi sessuale, dove c'è maschio più femmina, quindi c'è una ricombinazione del DNA genetica. Genetica, quindi sì, e invece quella asessuata è quella che riesce a fare una pianta da sola individualmente senza bisogno di un altro individuo o comunque di un altro corredo genetico diverso, vabbè, comunque. E quindi abbiamo fatto un po' di esempi tipo stoloni, polloni, ottalea, che invece è fatta dagli umani, non dalla pianta. Ma e invece nel caso della riproduzione sessuale abbiamo fatto anche la distinzione fra pianta monoica e dioica, quindi pianta che riesce a fare tutto da sola, ovvero monoica, quindi che c'ha sia il maschile che il femminile, e invece dioica, che invece gli serve un altro proprio individuo, un'altra pianta, per o la parte maschile o la femminile, comunque quella opposta, chiaramente. Esatto. Non so quanta omosessualità ci possa essere nelle piante. Non lo so. Per loro effettivamente, forse a fini riproduttivi, poco. Poi magari si amano molto lo stesso. Sicuramente, certo. In altra maniera. Certo, quello sempre. D'altronde oggi è la giornata dell'amore, non è la giornata solo della riproduzione, quindi è vero. Esatto. Infatti stavamo anche pensando, eravamo un po' indecise se parlare delle relazioni in generale fra piante e altri organismi, ma per quello forse aspettiamo un ospite speciale che magari ci potrà aiutare qualche altra volta. Già, quindi rimanete connessi anche per le prossime. Sì. Uiaia, e ci scrivono dal pad, attenzione, e qualcuno che conosce l'artista che abbiamo appena passato, quindi il mago annoiato, sì, i suoi sciottini assassini, sì, sono davvero assassini, confermo. Va bene. Ah, e ci dicevano che nel caso si può arrivare al pad in un'altra maniera, giusto? Sì, cos'è? Se volevi dire. Sì, dicevamo che se volete un po' più nel dettaglio, per arrivare al pad potete andare sul sito che abbiamo detto essere radiowombat.net. Da lì, se andate nella sezione contatti, su contatti troverete poi il link che si chiama diretta pad, dove appunto potete andare a vedere il pad in modo da commentare, da scriverci in diretta. Scrivete. Sì, anche se ci sono magari problemi, se ci si sente male, perché sì, qualunque cosa. Non si sa mai. O così, solo ciao, potete anche scrivere solo ciao, oppure i più, non so chi ha scritto i più. magari era una prova, oppure un messaggio in codice, cercheremo di decifrarlo. Oddio, un messaggio in codice, io. Sì, veramente. Beh, il più assomiglia col cerchietto sopra, è il simbolo della femmina. Quello del maschio, va, top, trovato. Ottimo. Diciamo che allora è chiaro sicuramente di cosa stiamo parlando a tutti. Esatto, hanno capito tutti. È per questo, sì. Ok, quindi... Comunque, senza divagare, continuiamo, perché noi siamo maestre nell'arte del divagare. Sì. Quindi proseguiamo. Beh, potremmo fare di peggio, comunque. Sì, esatto. Ci proviamo? No, scherzo. Ok. Allora, quindi... vorremmo, diciamo, un po' più approfondire quella che è la riproduzione sessuata. Perché quella è dove c'è maschio più femmina, insomma, dove c'è un po' di brio, ecco. E quindi per farlo però intanto vorremmo fare un'altra distinzione fra due tipologie diverse di piante, perché queste due tipologie si riproducono anche in modo diverso, quindi serve dirlo, ecco. Quindi parliamo di differenza fra gimnosperme e angiosperme, che sono delle parole difficilissime, accidenti alla biologia e alla botanica. Comunque ragazzi, ringraziateci, perché noi tentiamo di sintetizzare e sintetizzare, sì, e togliere tutto ciò che c'è di scientifico. Esatto. Sì, no, perché sono me, i botanici sono dei malati mentali spesso, perché danno una quantità di spiegazioni e di nomi, cioè, che non hanno senso. Comunque gimnospermi e angiospermi invece fanno comodo come nomi, sì, e quelli li possiamo ricordare, li potete ricordare. E, quindi Gimnosperma, come parola proprio, significa un seme... nudo. Esatto, un seme nudo. Quindi, boh, che vuol dire? Poi ci arriviamo. Fondamentalmente io la vedo un po' così, per ricordarmelo più che altro. Seme nudo nel senso che è più semplice, quindi ha meno strutture evoluzionicamente meno complesse. Dai, quasi c'era quasi. Diciamo che in realtà non dire le parole difficili è per noi, non per voi, come potete notare. Tutto bene, tutto bene. La dislessia ogni tanto colpisce. Quindi dicevo che le gimnosperme è come se fossero meno evolute, diciamo. Infatti, proprio a livello di evoluzione nel tempo vengono prima, per davvero. E quindi invece le angiosperme vengono dopo. Ok. Quindi diciamo sono più evolute. Non che siano meglio, perché se fossero meglio vorrebbe dire che le gimnosperme non esistono. Non esisterebbero più e invece ci sono ancora. Porca miseria. Non ho bevuto gli ciottini del mago annoiato, ve lo giuro. Sono così io, di mio. Tutto bene. Allora, quindi... È una bella cosa, è una bella cosa. Speriamo. Grazie che mi apprezzi, Sissi. Ora mi sento confortata. Prego, cara. Cerco di mandare messaggi d'amore in questa giornata, mi sembra importante. Wow, wow. Oddio, il cuore a mille. Ok, allora, dicevamo. Le gimnosperme, quali piante sono? Perché normalmente il termine gimnosperma non si sente a giro. Sono tante piante diverse, sicuramente tutte le conifere, per esempio. Tra l'altro molto spesso si semplifica dicendo che gimnosperma uguale conifera, non è così in realtà, perché anche il ginkgo è una gimnosperma, ma anche le cicas sono gimnosperme, quindi insomma c'è anche altro. Però se voi volete avere un esempio semplice, immaginatevi una qualsiasi conifera. Un cipresso, per esempio. Esatto, un pino. Quello che vi gli abeti, della quale abbiamo parlato nella scorsa puntata. Esattamente. Abies, ecco, i nostri begli abies. loro. E, quindi, più o meno, molto in breve, come si riproducono le gimnosperme? Hanno ovviamente, siccome siamo nell'ambito della riproduzione sessuata, hanno parte maschile e parte femminile. Quindi queste parti sono inserite in delle strutture, brava, mi batte ancora di più il cuore, che vengono chiamati strobili. Quindi di solito vengono chiamate pigne, per esempio, anche se con pigne ci si riferisce allo strobilo femminile, di solito, in particolare. E, quindi prendiamo per esempio l'esempio del cipresso, che appunto ci ha nominato. E, quello lì ha due strobili diversi, uno maschile e uno femminile. Quello femminile spesso si trova più all'esterno, quindi più in fondo ai rami. E ha un senso questo, perché deve essere più capace possibile di raccattare il polline che viaggia nell'aria grazie al vento. E anche forse successivamente per diffondere meglio i semi? Sì, direi di sì. Darsi. Quindi, e invece c'è anche lo strobilo maschile, che di solito non ci si fa molto caso perché è molto piccolo. Nel caso del cipresso è molto piccolo, nel caso di altre conifere, per esempio, può essere anche un po' più grande, ma sicuramente non si nota un granché. Quello del cipresso in questo periodo sta iniziando a produrre polline, quindi se voi andate a giro e cipressi ne trovate ovunque, almeno in Toscana, vedete. Quindi attenzione a quelli allergici come me, perché sono spaventosi. Eh sì, fra poco parte l'allergia anche per il cipresso, infatti. E in questo periodo appunto iniziate a vedere che i cipressi diventano tutti un po' più arancioni, perché sugli strobili maschili si forma il polline, che ha colore arancione, e quindi più ce n'è e più arancione, ok. E a un certo punto poi magari fra un mesetto, forse due, ora non mi ricordo di preciso, inizierà a liberarsi appunto nell'aria grazie al vento questo polline, che andrà a depositarsi sugli strobili femminili. Nel caso del cipresso, gli strobili femminili sono quelle palline che, se vi cascano in testa quando sono ancora non mature, sono dure, sono un pochino durine. Sì. E quindi sono fanno anche male, accidenti. Infatti, quindi il polline arriva su quelle palline lì e entra tramite dei canali totalmente invisibili, non so dove siano, ma da qualche parte ci sono, e inizia tutto il processo della fecondazione. Quindi, appunto, come si diceva prima, corredo genetico maschile più corredo genetico femminile, e che dura un tot di tempo. Nel caso di alcune conifere dura un sacco di tempo, cioè alcuni fini ci mettono 3 anni affinché sì. il seme sia pronto, maturo e possa disperdersi nell'ambiente. E come si fa a riconoscere, per esempio, sempre nei cipressi, quando lo strobilo femminile è arrivato a maturazione? È quando quella pallina risulta essere tutta aperta e leggera, oltretutto, quindi non fa più male se vi casca in testa. E quindi perché si apre e fa cascare i semi, banalmente. Cioè, di solito casca tutta la pallina a terra e da lì poi si spera che germogli qualcosa. E questo era un po' una volta cascati i semi. Una volta cascati i semi, tra l'altro, gli strobili diventano molto carini, secchi così. A me piacciono tantissimo, sì. Si possono usare tipo decorazione. Di Natale, per esatto. esempio. Esatto. Torniamo alla nostra Natale. Scorsa puntata. Siamo bravissime a fare collegamenti. Esatto. Grande. Sì, e questo più o meno era... prenderli, colorarli. Sì. Per esempio, sì. Questo è un po', diciamo, in sintesi, come funziona la riproduzione delle gimnosperme. E nel caso dei pini, per esempio, quello può essere un altro esempio molto semplice. I pini producono i semi, che sono quelli che noi chiamiamo pinoli, banalmente, che infatti sono dentro la pigna. Quindi quando la pigna è aperta si riescono a prendere i pinoli. E niente, era sì. solo per darvi un altro esempio, magari ce l'avete più presente. Sì, quello, sì, esatto, il pinoli del Pinus pinea, quindi esatto. precisamente quelli che trovate al mare. Sì. Invece, per quanto riguarda le angiosperme, appunto abbiamo già detto che loro, a differenza delle gimno, non hanno, scusate, delle gimnosperme non hanno il seme nudo. Si abbrevia un po' ogni tanto. Ma sono coperti da una struttura più complessa, e questi sono quelli che noi appunto chiamiamo i fiori, quelli che si vedono, che appunto apprezziamo in primavera. E questi fiori sono composti da varie parti che poi spiegheremo, ma intanto diciamo si possono dividere in fiori unisessuali e fiori ermafroditi. E unisessuali, quindi se abbiamo dei fiori femminili e dei fiori maschili che poi si dovranno fecondare vicendevolmente, cioè no, non è vero, solamente il maschile verso il femminile, oppure dei fiori ermafroditi che quindi contengono sia la parte maschile che la parte femminile. I fiori unisessuali, possiamo fare un esempio, sono ad esempio i fiori di kiwi. Invece quelli ermafroditi abbiamo il ciliegio, diciamo per magari un po' più famoso, non so, comunque fare un esempio, sì. Oppure quello della bene amata zucca, esatto. E ormai si è deciso che in tutte le puntate bisogna riportare la zuppa, stavo per dire, la zucca, la zuppa di zucca anche buona, e usarla come esempio per qualcosa, esatto. E la quercia. Quindi, se si vuole andare avanti e parlare dei fiori, si può prendere ad esempio, come hai appena detto tu, Zazi, il fiore del ciliegio, perché è molto bello il fiore del ciliegio, distingue bene tutti gli organi, si vedono bene, e quindi appunto se osservate una foto molto da vicino di un ciliegio potete capire adesso tutte le parti che compongono i fiori nelle angiosperme. Allora, intanto bisogna partire ovviamente da termini molto tecnici e dire che le varie parti del fiore si chiamano verticilli. Questi verticilli si possono distinguere quindi in verticilli fertili e verticilli sterili. Quindi nel nostro fiore noi avremo alcune parti che sono quelle che sono adibite alla riproduzione e alcune parti che invece sono adibite ad altre funzioni, quale per esempio la protezione, oppure adesso vedremo che alcune parti del fiore sono proprio adibite ad attirare alcuni insetti che poi fungono da impollinatori, quindi anche questi vediamo come sono intelligenti le piante, fanno un sacco di cose. Comunque questi verticilli sono super carine, sono anche non attirano solo gli insetti, mi sa. Questo è vero, questo è vero. Per tutti gli appassionati di fiori, gli appassionati fotografi, poi sono soggetti meravigliosi, soprattutto in primavera. E quindi dicevamo comunque che i verticilli che andiamo ad analizzare sono i sepali, che messi insieme formano la struttura che viene detta calice. Termini complicatissimi. Comunque, immaginiamo per capirci, immaginiamo di osservare il fiore partendo dall'attaccatura del rametto fino alla sua parte più alta. Quindi noi alla base avremo questi sepali che formano il calice, sono in pratica delle strutture che assomigliano a delle foglie, sono a volte un po' più rigide delle foglie, e vengono modificate per fungere da protezione, quindi dal basso proteggono un po' tutta la struttura del fiore. Poi andando un po' più su troveremo, per fare un po' di confusione, mi intrometto, sì, se avete presente il, sì, girasole, quelli che non assomigliano per niente a delle foglie sono dei sepali, ovvero quelli che sembrano dei petali. oggi voglio solo fare casino, esatto. Scusate. Comunque quelli gialli, oggi sei di umore casinista. Yes. Quelli gialli in realtà sono appunto sepali, e in quel caso servono per attirare, come dicevi te prima. Quindi questo era un, sì, esempio proprio di quelli che deviano completamente, esatto, ogni tipo di comprensione. Esatto, però è vero, mi fai da spunto, perché è vero, non bisogna mai dare un'informazione per unica, quindi in realtà i sepali possono essere verdi, possono essere colorati, quindi, Sì. E possono assomigliare ad altre strutture, quindi in realtà questa che diamo dei verticilli è una definizione generale, però giustamente ci sono tante varianti, ecco. Comunque, tornando a noi, dicevamo che abbiamo prima i sepali, poi i petali, che sono i verticilli che formano la corolla, che quindi sarebbe propriamente la parte quella con tutti i nostri petali colorati, che poi formano quella parte più visibile, più bella del fiore, diciamo così. E questi due sarebbero i verticilli sterili, quindi sono le parti che fungono, hanno funzioni a parte, come abbiamo detto prima. Poi abbiamo altri due verticilli, che sarebbero quelli fertili, che sono gli stami, che compongono l'androceo, ovvero la parte del fiore maschile, per così dire, che quindi ha tutti gli organi adibiti alla produzione del polline. Non vado nel dettaglio a spiegarvi tutte le piccole parti, perché tanto sono complicatine e non me le ricorderò mai, e non se le ricorderà mai nessuno. Comunque abbiamo l'androceo e poi la parte femminile del fiore, che è data dai carpelli e dal gineceo. E quindi in cui magari nelle angiosperme c'è, ma parliamo solo di angiosperme perché hanno i fiori, però c'è l'ovario, che è quello poi che verrà fecondato e tutto, insomma. Quindi abbiamo questi quattro verticilli. I fiori comunque possono essere di tantissimi tipi, quindi non è neanche detto che tutti i fiori abbiano queste strutture, le abbiano sempre tutte. L'unico fiore, insomma, che, cioè il fiore perfetto, per così dire, non mi piace come definizione perfetto, però si chiama perfetto, è quello che ha tutti questi verticilli. Però ci sono fiori che possono non avere i sepali, oppure avere petali piccolissimi, quasi non si vedono, insomma, possono essere di più tipi. E inoltre possiamo anche avere o fiori o infiorescenze, quindi non è neanche detto che si abbiano fiori singoli, ma si possono avere delle infiorescenze che ne portano tantissimi. E quindi nulla, questo insomma. Poi la struttura del fiore è quel che successivamente darà origine al frutto, che appunto è quell'organo che è adibito a portare a maturazione poi il seme e eventualmente anche disperderlo, giusto? Giustissimo. Mi piace un sacco come spieghi, sì. Capisco tutto benissimo, almeno io, poi spero anche gli ascoltatori. Speriamo, insomma, noi facciamo del nostro meglio. Voglio. E quindi facciamo il nostro meglio, ma adesso mettiamo anche della musica. Sì. Rientra nel fare del meglio, perché sponsorizziamo. Perché bisogna lasciar digerire, bisogna lasciar digerire le cose, no? Un pochino, quindi non si può sparare tutte le informazioni a bomba. Infatti, infatti. E quindi, beh, vi lasciamo con un altro pezzo. A dopo. Buon ascolto. Bella canzone questa. Rieccoci. Veramente. Sì. Adesso vi abbiamo fatto riposare. Aspetta, diciamo il titolo che non si è detto, mi sa, prima. No. Questa è Etnica Danza dei Modena City Ramblers. Ulala. Bellissima, stanza, mi piace un sacco. Tra l'altro sul pad dicono che il nostro tempismo è perfetto e non potevamo scegliere una pausa migliore, e penso anche riferiti alla musica, che effettivamente era molto bella. Spero vi siate alzati dal tavolo, vi siate messi a ballare, esatto, in modo sfrenato. Anche noi qua in sala, non nemmeno. Un pochino, abbiamo ballato dentro. Quello sicuro. Quello sì. Come? Sempre. Quello su, quello sempre. Comunque, dopo questa piccola pausetta, quindi, ripartiamo all'attacco e cerchiamo di capire ancora alcune cosine riguardo a questa riproduzione, che, devo dire, in realtà è molto interessante, secondo me, comunque. Che fanno delle cose strabilianti, mille cosine diverse. Assolutamente, sono più che d'accordo. Per esempio, una cosa che a me piace tantissimo è come sono ingegnose, adesso vi spieghiamo perché, le piante... i metodi che hanno trovato per impollinarsi tra di loro, perché noi sappiamo che le piante, gli alberi in particolare, non si possono muovere, andare in giro, no? E portare il loro polline e darlo alle varie piante, e quindi hanno sviluppato dei metodi per sfruttare gli agenti atmosferici, per sfruttare gli animali, gli insetti, per portarsi in giro il loro polline. Quindi, per esempio, come abbiamo detto già prima, abbiamo detto che ci sono le corolle colorate che attirano gli insetti, E questo le piante non lo fanno a caso, nel senso, appunto, a loro costa fatica anche, no? Colorare tutti questi petali, ma lo fanno perché gli insetti, attratti da questo colore, si attirano, si avvicinano al fiore e portano in giro tutto il polline. Un esempio assurdo, per esempio, di questa cosa è sì. Con alcune orchidee, penso nelle foreste tropicali, non so che hanno dei fiori assurdi, no? Le orchidee, alcune hanno praticamente bellissime, è vero, sì, hanno trovato questo gusto particolare, per cui praticamente il fiore assomiglia a, mi pare, tipo l'ape femmina, mm-hmm. e quindi l'ape o l'ape maschio, uno dei due, non mi ricordo, quindi l'ape dell'altro sesso quando va a giro a cercare nutrimento, robe varie, viene un sacco attirato da quel fiore di orchidea e anche forse dal profumo, mi sa che libera anche alcuni Sì, viene ingannato per benissimo, sì, sì, diciamo. Sì, ma per benissimo proprio. Ma io avevo sentito che arriva a ingannarlo così bene che a volte gli insetti addirittura si riproducono con la pianta. Cioè, detto in modo molto delicato, svolgono un atto sessuale con il fiore della pianta, perché assomiglia così tanto all'insetto che li confondono, e quindi loro vanno lì, poverine, si sporcano tutti di polline, vero? Cioè, e quindi vedi, le piante sono delle grandi... Che malandrine che sono. E poi noi umani ce la mettiamo. Sono delle furbacchione. Gender fluid, di omosessualità. Sì, esatto. Ma cioè, questi fanno robe tra specie diverse, cioè tra regni diversi. È vero, è vero. Regno delle piante, sì, sì. Più il regno degli animali, cioè una combo mitica. Wow. Sì, e in tutto questo forse l'insetto nemmeno se ne accorge, quindi, lui è felice e basta. È sveglio. esatto. Comunque, oltre agli insetti, gli insetti non sono gli unici che portano il polline in giro, anche se, trovo giusto ricordarlo, sono importantissimi, soprattutto le api, aiutate le povere api, distinguetele anche dalle vespe. Spesso c'è una gran confusione tra api e vespe, che l'ho scoperto negli ultimi anni, le persone uccidono le api perché pensano siano vespe e si spaventano. Comunque, detta questa piccola cosa, ci sono anche altri mezzi con cui le piante impollinano, per esempio fanno un'impollinazione anemofila, cioè usano il vento per portarsi in giro il polline, per esempio il cipresso fa questo, ma anche impollinazioni zoofile, quindi legate agli animali. Quindi, per esempio, un animale camminando magari si struscia su un cespuglio o lungo un cespuglio e poi, passando vicino ad altre piante, deposita il polline che ha raccolto strusciandosi prima sulle piante accanto. E quindi hanno trovato tutti questi metodi per impollinarsi tra di loro, ecco. Esatto. E quindi abbiamo detto che abbiamo questo fiore che poi viene impollinato, quindi il polline scende dentro l'organo, la parte femminile del fiore, che abbiamo detto che si chiama pistillo. Che è una sorta di tubicino, immaginiamolo, esatto. Così, che va verso il basso, esatto. Dove c'è? Scende, arriva all'ovario, andrà a fecondare appunto gli ovuli, e da lì poi si formerà appunto, quindi con le parti dell'ovario, il frutto, con l'ovulo, i semi, e questo frutto anche lui, diciamo, cadrà dall'albero, verrà oppure appunto anche i semi stessi verranno diffusi, e anche in questo caso, diciamo, ci sono varie metodologie per la quale questa cosa viene fatta, quindi si riprendono, diciamo, appunto insetti, animali, sempre il vento, l'acqua, perché potete vedere anche in giro, ad esempio, non so se avete presente forse il seme, il frutto degli aceri, ad esempio, che sono alati o anche dei tigli, e questi perché si diffondono dal vento, quindi li vediamo girare e muoversi, e in questa maniera volare proprio veramente, e così si diffondono anche in maniera, anche andando più a distanti dalla pianta madre, o anche nell'acqua. Anche qua ci sono vari metodi. E quando arriva poi... Ma voi lo sapete? Voi lo sapete come fanno le piante a insediarsi, per esempio, nelle isole deserte o quelle vicino a eventi vulcanici, che quindi si spogliano del tutto? Dici. ho letto in un libro che in questo momento non mi ricordo il titolo, quindi non vi citerò niente, però non ci sono le fonti. Non ci sono le fonti, per la prossima volta se me lo ricordo ve le porto magari. Lo dicono tutti praticamente... i prof, non ti cambia. Bravissima, è proprio vero. Comunque pare che le prime piante che spuntano sulle isole deserte, per così dire, sbocciano perché alcune piante fanno sì che i loro semi siano appetibili agli uccelli. Perciò gli uccelli si mangiano questi semini, o comunque mangiano gli insetti, e poi volando sopra le isole e defecando sopra le isole lasciano questi semi che vengono ingeriti interi sulle isole, ed è così che appunto sboccia la vita sulle isole deserte. Oppure anche con il trasporto del mare, sì, delle onde del mare. Anche, sì. Tra l'altro, sì. Ora... Se si immagina un frutto contenente un seme, no? Che viene trasportato nelle onde del mare, cioè deve essere veramente costruito in modo particolare come frutto, perché cioè, magari si fa chilometri e chilometri da una sponda a un'altra, e magari ci mette qualche mese o non so, forse anni, non lo so, e poi viene, cioè sicuramente verrà deteriorato, ma in parte mangiato da altri pesci o organismi, quindi i metodi di riproduzione delle piante sono davvero affascinanti spesso. Esatto, e quindi appunto quando questo seme arriverà sull'isola o su qualunque altra parte del mondo si infilerà nella terra e poi germinerà grazie a quelle che sono le sostanze di riserva presenti in esso, e quindi si farà forza inizialmente da queste sostanze che gli vengono date dalla pianta madre, finché piano piano con la prima radichetta, le prime foglioline, riuscirà a farsi l'individuo nuovo, la nuova piantina, riuscirà a farsi forza da solo e da sola, e lì nascerà, crescerà e poi si riprodurrà. Nasci, cresci, corri. Vola, fai sesso. Problema delle piante Valentino. Che non corrono. Lontano. Vabbè. Corrono in altri modi, no? Comunque lanciano corrono... i figli a giro. Esatto. Corrono in altezza. Anche. Lanciano i loro bambini lontano, vero? Esatto, qua torna. Madri poco apprensive. Sì. E oltretutto vorrei buttare un altro semino, giusto perché mi diverto a far casino, ovvero che quando il seme è a terra e deve germinare, già in realtà prima, ancora prima di tirar fuori la prima radichetta, e radichetta è proprio un termine scientifico, non siamo noi che non è un vezzeggiativo, carine, no, esatto. Però sono effettivamente carine. Si chiama radichetta davvero? Sì, comunque ancora prima che esca, quindi questa prima radichetta, già inizia a formarsi quella che viene chiamata rizosfera intorno al seme, quindi il suolo intorno al seme prende caratteristiche particolari perché iniziano a esserci presenti microrganismi che prima non c'erano, cioè non è che appaiono, cioè ci arrivano ovviamente, si spostano, quelli possono spostarsi, vengono attratti proprio dal piccolo semino che ancora sembra non abbia fatto niente di niente della sua esistenza. In realtà non è vero, perché sta già rilasciando nell'ambiente, nel suolo in particolare, della sostanza organica, magari pochissima, però quello già gli serve, perché appunto, però già si muove, sì, perché appunto attrae questi microrganismi, i quali fanno tutta una serie di robe, boh, vabbè, un casino, comunque rendono l'ambiente migliore per la germinazione del seme. Ora, non è che lo fanno perché il seme li paga, ma perché ci guadagnano anche loro, chiaramente. Perché si amano. Oddio, sì. Si amano un sacco. E quindi, niente, c'è questo fenomeno incredibile anche che... già il seme prima di fare qualsiasi cosa è già vivo in un certo senso. Vero. Eh sì, in effetti sì. Comunque leggo con gioia che sul pad c'è qualcuno che sa che i bombi non pungono, e quindi il mio cuore grandi. Si riempie di un po' di fiducia nei confronti del genere umano. Grandi. Viva tutti gli impollinatori. Amore per tutti gli impollinatori e per il genere umano. Tutti gli impollinatori. Che conoscono gli impollinatori. Sì. Per gli altri no. Ciao. Quindi... Comunque, se vi interessa riguardo agli insetti, ho scoperto anche che le api sono molto affettuose con gli apicoltori. Oh, che cucciole! Sì. Vedi, siamo sempre nel tema in realtà di oggi, dell'amore. Ma perché siamo orientate ormai, ci viene in mente tutto riguardo all'amore. Certo. Dai, vi mandiamo un altro pezzettino e ritorniamo quindi col nostro caro mago annoiato. E questa è... Dov'è? Domenica, non ho più il tempo. A dopo. Ciao. C'è una certa età, del tempo che vivo ne vivo bene, solo la metà quando va bene. Io ve la butto là, lasciamolo qua, che tanto treno Italia un po' che lo faccia. E mi dicevi che avevamo tutto il tempo del mondo per crescere insieme. Al mondo restano siano 10 minuti. Non ho più il tempo. Non ho più il tempo. Non ho più il tempo e al contempo sono contento così. Non ho più il tempo. Non ho più il tempo. Non ho più il tempo e ma contento. Abbiamo gli occhi bordo, ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla, ehi, questa è dedicata a chi rolla. Yo, io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo, ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla, ehi, questa è dedicata a chi rolla. Yo, i miei non son progetti come l'ingegner cane. Voglio fare canne, faccio canne che ti fanno male. Tiro su più di una blu, me la sbuffo. Fumo come un drago stando attento allo sceriffo. Qui ci legano le mani coi loro bracciali e parlano di una cannetta con psicologi e pretori. Digli che non fumi più, hai solo provato. Digli son sfigato, ma hanno subito beccato. Ma ora mollo, vada tranquillo. Ho un lavoro ed una fidanzata che mi sta per regalare un figlio. Attore o fumatore, che mi tocca fare? Se mi fumo marijuana vengo detto criminale. Se fai coltivatore solamente per fumare, se coltivi marijuana vieni detto criminale. Io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo. Ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla. Ehi, questa è dedicata a chi rolla. Yo, io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo. Ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla. Ehi, questa è dedicata a chi rolla. Poi fumano i dottori, meccanici e pure sbirri. I cani non ti cagano se sono due spinelli. Nessuno vota sì, ma qui tutti fanno su. Non capisco come mai, fra, spiegamelo tu. Io vorrei che un figlio mio non fumasse assai. Gli direi ti fa male figlio, te ne pentirai. Erro sapendo di errare. Esagero perché sono portato quasi sempre a esagerare. È un medicinale che poco non ti fa male, che troppo fa collassare, non serve a comunicare. Gustalo, il palato e i tuoi polmoni farà stridere. Io fumo sigarette che fa ridere. Yo, io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo. Ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla. Ehi, questa è dedicata a chi rolla. Yo, io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo. Ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla. Ehi, questa è dedicata a chi rolla. Poi ho il vizio di rompere e ricomporre sigarette, ma a metà trattamento aggiungo un nuovo componente. Metto l'ingrediente, me ne foto della gente, di chi dice che è sostanza stupefacente. Quindi fuma la mia jolla, la mia cumpa che decolla nella metro quando giro per Milano tra la folla. Se ci sono gli sbirri faccio il numero del mago. Non trovano mai nulla a parte qualche caso raro. La fortuna è cieca ma la sfiga vede bene, quindi all'occhio. La pula travestita nel mucchio. Fate leggi ma la sorte vi dice che l'Italia fuma forte. Il problema torna a corte. Io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo. Ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla. Ehi, questa è dedicata a chi rolla. Yo, io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo. Ci fumiamo sigarette che hanno il flow di una bomba. Questa è dedicata a chi rolla. Ehi, questa è dedicata a chi rolla. Vi starete chiedendo perché cacchio vi ho messo sta canzone. Un pochino sì, però era molto orecchiabile, quindi molto bella. Eh sì, certo, qui le scelte sono di qualità, eh. C'è una attenta analisi e ricerca, tanto che ci è venuta in mente. Tanto che, no, mi è venuta troppo in mente sta canzone perché dice Chirolla e quindi sembrava Corolla, la corolla del fiore. Cioè, siamo un po' deviate. Ma in realtà non è solo per questo, ma è anche perché vi volevo parlare di una roba. Però prima leggiamo il commento sul pad. Insetti pan sex. Siete mitici, ragazzi. Siete bellissimi. Grazie molte. Grazie. Tutta la nostra stima. E, quindi, dopo ringraziamenti vari. Chi è che rolla? Chi è che rolla? Esatto. Più che altro, cosa rolla? Cosa rolla? Vi volevo portare un esempio della pianta della canapa. Che cacchio c'entra? Perché con tutti questi studi, anche molto più approfonditi, no? Come si accennava prima, di come ve li abbiamo detti noi oggi, chiaramente, l'uomo ne tira fuori cose particolari a volte. Cioè, tutti questi studi appunto super approfonditi che vengono fatti permettono anche di arrivare a delle innovazioni, a mio avviso, incredibili. Vabbè, possono anche essere discutibili a livello etico, perché si tratta comunque di rimaneggiare la natura, questa grande entità che è la natura. Però, cioè, oggettivamente sono veramente incredibili. E quindi vi parlo di questo esempio che è la canapa. Allora, come tutti sanno, la canapa è quella che ci fa sballare, perché... Che vi fa sballare. No, per davvero che vi fa sballare. Comunque, perché viene spesso coltivata per la produzione dei suoi fiori, che hanno tutta una serie di sostanze resinose che appunto contengono THC, che vabbè dà effetti vari. Comunque Il fatto è che per questo tipo di coltivazione serve appunto avere piante soltanto femmina, quindi con fiori femminili. Infatti la canapa è una pianta dioica. Quindi cosa vuol dire? Si è detto prima. Vuol dire appunto che un individuo da solo non è in grado di riprodursi con riproduzione sessuale, si intende. Ma ha bisogno di un altro individuo. Questo perché ogni individuo può essere solo maschio o solo femmina. Ora, la canapa è un po' una pianta strana. Ce ne sarà sicuramente tante altre che fanno così, è talmente vasto comunque il mondo vegetale, sicuramente ce n'è. Il fatto è che in alcune condizioni la canapa può anche diventare una pianta ermafrodita, ovvero che presenta sia fiori maschili che femminili. E questo può avvenire se è per esempio molto stressata o se l'epoca di fioritura di, quindi una pianta femmina, si prolunga molto e quei fiori non vengono asportati alla pianta, cosa che normalmente succede per chi appunto ricerca il prodotto proprio da fumare. E, può succedere che appunto produca anche dei fiori maschili. Quindi c'è un po' questa particolarità di essere estremamente appunto che si adatta molto bene. E io penso che sia dovuto anche a questo tutto il rimaneggiamento, diciamo, non è proprio genetico, comunque tutto l'utilizzo che ora vi vado a spiegare che ne viene fatto. E in cosa consiste? Praticamente, come dicevo, l'obiettivo è quello di avere soltanto piante femmina. Soltanto che non è una cosa semplice, perché quando si raccoglie il seme di una pianta, ripeto, dioica, e lo si va a piantare, non è che sappiamo a priori se quel seme porterà, cioè sarà una pianta, un individuo maschio o un individuo femmina. È una cosa che normalmente non si può decidere. Nel caso della canapa si riesce a fare invece incredibilmente. Come funziona? Prendono una pianta femmina, dovrebbe essere, cioè di solito è una pianta che piace, le cui caratteristiche piacciono molto, e su questo individuo singolo e isolato anche di pianta femmina di canapa viene fatto un trattamento. Un trattamento chimico particolare, si usa sostanze varie, mi ero andata a leggere, erano argento colloidale, un nitrato d'argento, vabbè, insomma della roba comunque, al di là di quello che è quello. E questo trattamento è una soluzione liquida che viene, penso, spruzzato proprio su di solito alcune parti della pianta, non c'è bisogno di farlo su tutto. E quindi si prenderà ovviamente i rami, che sono rami fruttiferi, quindi che portano appunto strutture sessuali femminili saranno. Quindi si spruzza sta roba e succede che in quel punto in cui si è spruzzata la pianta, magicamente, inizierà a fare anche dei fiori maschili. Quindi prima faceva solo fiori femminili, invece ora inizia, li gira qualcosa e inizia a fare anche quelli maschili, i quali però in realtà sono stranissimi, cioè non sono fiori normali, nel senso che io li chiamo maschili fasulli, nel senso che portano l'informazione genetica interna in realtà soltanto di quella femminile. Cioè un po' come, io me la vedo così, un po' come ci spiegano che funziona l'omeopatia, cioè ti danno una roba, la ingerisci e quella ti induce a fare una certa cosa, cioè è il tuo corpo che, diciamo, da solo, con i propri mezzi, ma indotto da un'altra sostanza chimica o quello che è, inizia a fare qualcosa, no? È un po' il caso, è lo stesso, cioè inizia la pianta a produrre anche fiori maschili, che però venendo questi fiori dalla pianta stessa non possono oggettivamente portare il corredo genetico maschile, per quello sono fiori fasulli. Ma sono fasulli, ma neanche troppo, perché in realtà producono il polline, cioè è stranissima sta cosa. Però appunto il polline, che non mi contraddico, il polline appunto in realtà porta soltanto cromosomi XX, vabbè, che vuol dire corredo genetico solo femminile. Questo polline comunque riesce anche a impollinare appunto i fiori femminili che si trovano sempre sulla solita pianta, no? Che appunto di partenza era una pianta femminile. Quindi questi fiori riusciranno a produrre dei semi, i quali semi però anche se sono in un certo senso fasulli, ma in questo caso un po' fra virgolette, perché sono fertili, ma non avendo nel loro bagaglio genetico, mettiamola così, l'informazione genetica maschile, nel 99,9% dei casi saranno degli individui femmina, perché non hanno trovato da nessuna parte il corredo genetico maschile. Cioè, normalmente la canapa, quando si impollina fra individuo maschile e femminile, il seme che ne viene fuori probabilisticamente potrebbe essere o maschio o femmina al 50%, quindi boh, chi lo sa. In questo caso invece nel 99,9% dei casi sarà femmina. E appunto io mi sono interessata di questo argomento proprio perché mi affascina, cioè è incredibile che si riesca a fare una cosa del genere. E poi ovviamente la cosa è estremamente più complessa, cioè appunto andandomi a leggere cose a volte dici sì, ma in questi laboratori fanno cose strane, non so. una cosa però per esempio è che serve una stabilizzazione, diciamo, del corredo genetico, perché come sempre, questo non è niente di strano, il seme che viene fuori è diverso dall'individuo madre, diciamo, dall'individuo di partenza, a maggior ragione se viene da un incrocio fra maschio e femmina, ma altrimenti anche se in questo caso qui, quindi viene fuori soltanto da un individuo femmina. Per questo questo processo di trattamento, insomma, deve essere fatto più volte, in più cicli. Poi a volte è un casino, insomma, a volte vengono fatti germinare alcuni, per esempio 4 o una decina di semi della pianta madre, e quelli si rincrociano fra di loro, cioè non è che si rincrociano, noi li rincrociamo, no? Fra di loro in modi particolari, così nel dettaglio non lo so neanch'io, ma non penso sia così importante. Era proprio, diciamo, per portarvi un esempio di appunto portarvi un esempio di cosa si può fare, sì, con questo tipo di informazioni. Direi che è abbastanza assurdo il fatto di come le piante certe volte possono rispondere, e quando, diciamo, si riescono a capire queste risposte, poi come l'uomo le sfrutta, diciamo, alcune dinamiche, appunto come quella di trasformare alcuni rami, cioè di avere anche alcuni fiori maschili fasulli, mm-hmm, per portare avanti tutto questo processo. Sì, sì, sì, l'uomo, cioè, credo che la maggior parte di questi studi siano anche principalmente legati a questo. Ha sviluppato anche a suo favore in molti casi, ecco, quindi sì, è veramente molto interessante. Comunque, sul pad ci chiedono come si riconoscono i fiori femminili da quelli maschili. Non ho ben capito se riferiti ai fiori di canapa o ai fiori in generale. Comunque, riguardo ai fiori di canapa, dimmi Addu, che sei un po' più esperta, se sbaglio, mi sembra che i fiori femminili si distinguono perché che invece nella pianta maschile non ci sono. Sì, mi sa che forse era andata via la connessione. Sì, scusate, alcuni sono online, altri invece no, in regia come sempre. Quindi non mi si è sentita? No, esatto, ridillo. Ok, allora semplicemente i fiori femminili di canapa mi pare che abbiano dei pelucchi biancastri sui pistilli, vengano dai pistilli, mentre i fiori maschili, o comunque gli esemplari maschili delle piante di canapa, si riconoscono perché non producono questi pelucchi, ma hanno dei gruppi di palline che sono i granuli pollinici, insomma. Può darsi. Diciamo, ci piace questa risposta. In realtà non sono esperta, è solo che quell'argomento, appunto, questo del trovare, del creare solo piante femmine, mi aveva affogato ultimamente, però non sono così esperta in realtà, quindi non mi so aiutare. Comunque mi pareva di aver letto una volta che fosse questa la differenza, quindi se vi va bene la date per buona, altrimenti comunque ci sono molti siti da cui sicuramente viene spiegata tutta questa cosa. Comunque mi sembra che fossero i peluchi bianchi. Forse ci stanno aiutando anche da casa, perché ci dicono che credo che i fiori maschili non hanno quel profumo buono che hanno i fiori femminili. Eh no, quello non è sicuro, certo. Ci sta. Grazie. Comunque sì, invece per quanto riguarda altri tipi di piante dipende. Ora, nel caso delle conifere ve l'ho detto un po' più nel dettaglio, quindi ci sono gli strobili, uno piccolo, uno grande, però nel caso invece dei fiori appunto dipende dalle piante, sì. Cioè nel caso tipo della zucca ulala di nuovo. Ma non so perché mi viene sempre questo esempio poi. Vabbè, comunque, i fiori sono praticamente uguali, però tipo uno all'interno, se si guarda dentro, si vedono davvero i pistilli e in quell'altro no. Esatto, si distinguono gli stami e i pistilli, sì. Diciamo. Però appunto dipende molto dalle piante. Sì, per esempio ci sono alcune piante in cui le infiorescenze maschili sono molto più lunghe di quelle femminili o viceversa. Merda. Quindi è molto, molto in base alla singola specie, ecco. Sì, sì, spesso hanno proprio strutture molto diverse, cioè alcune penzolano in giù, sono degli amenti che penzolano in giù, insomma. Sì, sì, sì, esatto. E niente, ecco, siamo un po' arrivati alla fine. Conclusion, sì. Sono le 20:00, mai state precisissime. E la precisione piano piano, la precisione, sì, piano piano si sta espandendo. Sì. E quindi speriamo che sia stato un minimo chiaro tutte le chiacchiere che si sono fatte, speriamo non siano andate totalmente a vuoto. E grazie dei vostri commenti, dei sì, vostri suggerimenti, domande, tutto. Sì, soprattutto insetti pansex. Grazie di averci ascoltati. Mi rimane nel cuore. E niente, quindi vi mettiamo un ultimo pezzo. Ultimo pezzo, sì, direi. Sempre del Mago Annoiato. Il dubbio e la pioggia. Quindi vi salutiamo con quest'ultimo pezzaccio. E ci rincontreremo, ci risentiremo. Non sappiamo prossimamente. Tra quanto. Si lascia il dubbio, cioè il beneficio del dubbio. Anche prima o poi ci caso troverete. Sì, sì, sì. E quindi niente, ci rivedremo con Nervature, quindi la trasmissione che vi racconta e vi parla di piante su Radio Wombat fra un po' di tempo, però lunedì alle 18:30. Esatto, quello poi. Bene, buon ascolto. Comunque avete ascoltato Sissi, Addu, Zazzi. Ciao, e ciao. Vi salutiamo con il dubbio e la pioggia. Ciao. Ciao. Ciao. su di noi, su di noi, su di noi, su di noi, su di noi. Dannato il principe persiano sognatore, le mani mie sono ancora piene di dolore. Sia dannato il principe persiano sognatore. Oscurità, sangue e petrolio hanno lo stesso colore. Sia dannato il principe persiano sognatore. Nell'oscurità, sangue e petrolio hanno lo stesso valore. Stesso valore.